frequenze sui generis. Innamorati del femminismo. Ciao a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Frequenze sui Generis. È primavera, noi qui in studio siamo contente perché oggi siamo io che sono Viviana, qui accanto a me c'è Anna e abbiamo un ospite speciale, Antonia Caruso, scrittrice e ideatrice del progetto Raising My Rainbow. Sì, intanto ti salutiamo Antonia, ti diamo il benvenuto e ti ringraziamo per essere qui con noi. Ciao. Un ospite con l'apostrofo, mi raccomando. Sì, il progetto Raising My Rainbow, di cui abbiamo già parlato recentemente, sempre con Antonia su queste frequenze, per un motivo, diciamo, decisamente negativo, diciamo che non aveva niente a che fare col progetto, nel senso che è stato oggetto di un attacco fascista, neofascista, della costola femminile di Forza Nuova, alla Libreria delle Donne ormai 2 settimane fa. Però noi non siamo tanto interessate a parlare di neofascismi a cui daremmo più visibilità e più importanza di quella che probabilmente hanno, perché così è stato anche per i manifesti che erano stati attaccati in quel caso, che sono stati tolti dopo poco più di un'ora o comunque a breve distanza da una passante solidale. Quindi insomma siamo più interessate a parlare di quello che è il progetto che è stato oggetto di questo attacco, un progetto che si intitola appunto Raising My Rainbow, di cui tu Antonia sei una delle ideatrici, coideatrici e organizzatrice, quindi per prima cosa ti chiediamo in che cosa consiste. Certo, grazie, perché ci tenevo, diciamo, i primi giorni c'è stata molta attenzione più all'attacco fascista che non ai contenuti della nostra iniziativa. Io personalmente mi sono un po' infastidita di questa cosa perché sembrava un po', diciamo, un attacco fino a se stesso, come in realtà sono tutti i loro attacchi fascisti. Quindi Raising My Rainbow nasce da un'idea mia e di Elena Alberti della Libreria delle Donne, alla quale abbiamo aggiunto il progetto Alice nelle persone di Giulia Selmi e Cristina Gamberi in qualità di esperte di didattica. Quello che abbiamo voluto fare è fare una rassegna dei libri per l'infanzia, cioè di storie per un'infanzia gender variant. Cosa vuol dire infanzia gender variant? È, diciamo, il passo precedente, volendo, non parliamo in termini evoluzionistici ovviamente, quando sono dei bambini e delle bambine che hanno un'espressione di genere diversa dal sesso assegnato alla loro nascita. Quindi magari ci sono dei bambini che preferiscono giocare, che ne so, con le bambole e vestirsi di rosa, oppure delle bambine che preferiscono giocare a calcio. Io su questa cosa ti volevo fare una prima domanda, in realtà, nel senso che quando ci si riferisce a infanzia gender variant, tu dicevi non in un senso evoluzionistico ma può essere un primo passaggio, però in realtà ti volevo chiedere, diciamo, in un'ottica di superamento di un binarismo di genere o comunque di una divisione per cui per ruoli stereotipati, per cui un uomo deve fare certe cose, una donna altre, e lo stesso vale per i bambini e le bambine, se in realtà l'importanza di immaginari diversi, di narrazioni differenti, non valga poi per tutti, appunto, per tutta l'infanzia. Sì, quello che su cui volevamo concentrarci non era sui ruoli di genere, ma sull'identità di questi bambini e di queste bambine, cioè di come si definiscono. E avere delle storie per dei bambini e delle bambine è molto importante, cioè delle storie che le rinforzino, che non ci sia una colpevolizzazione, una patologizzazione, che non si crea un senso di colpa, insomma che la possano vivere in maniera libera, perché, cioè, la base di tutto di fatto è la libertà di poter sperimentare delle cose, di poter tornare indietro, di poter magari provare per un periodo a giocare alle bambole e poi lasciarle stare. Per questo parlo di non evoluzione, perché questo periodo può anche essere limitato, magari alcune persone possono continuare in un percorso di transizione più avanti, ma non parliamo di bambini trans, parliamo di bambini che a un certo periodo della loro vita non seguono le norme di genere, e quindi non c'è assolutamente niente di pericoloso in tutto questo. A proposito di pericoloso, di ciò che appunto viene percepito come pericoloso, io insomma sono cresciuta negli anni 80 e ricordo benissimo un libro della mia scrittrice preferita, che è Bianca Pizzorno, che è Extraterrestre alla pari, che appunto parlava di questo Mo, che era un extraterrestre con o senza apostrofo, non si sa, perché veniva da un pianeta Deneb in cui le bambine, cioè i piccoli extraterrestri non avevano un genere assegnato e neanche un sesso, lo scoprivano, diciamo, più in là durante l'adolescenza. E era un libro bellissimo perché smontava tutti gli stereotipi di genere E all'epoca il libro è uscito nel 1979, io insomma l'ho letto, sono stata bambina negli anni 80, ricordo che questi libri circolavano senza alcun problema, non c'erano censure, non si parlava di ideologia gender, invece adesso un po' è diventato quasi uno spettro, addirittura alcuni gruppi vogliono fare falò, come appunto quello che ha attaccato la libreria, parlano di voler fare falò di questi libri. Cioè, mi sembra che adesso ci sia un po' un ritorno, una certa, anche non solo nei libri ma anche nei giocattoli, una rigenderizzazione molto forte dei giocattoli e anche una maggiore paura rispetto a certe tematiche che prima passavano, circolavano senza essere etichettate e senza ricevere attacchi così forti. Innanzitutto penso che quel tipo di libertà in questo momento si sia molto spostata sulla fantascienza, dato che comunque si parla di alieni. La fantascienza, ad esempio, alcuni libri di Ursula Le Guin parlano esattamente di questo e molta altra fantascienza, per esempio posso citare di fantascienza femminista, affronta questi temi e nessuno se ne accorge, perché ovviamente nessuno legge fantascienza, a parte poche persone. Era anche un momento molto diverso, nel 79. Non penso che fosse un momento di libertà maggiore di questo. Però c'era un sistema mediatico molto meno capillare, c'era una potenza di raggiungimento diciamo attraverso i media molto minore da parte di chiunque, e c'era anche la paura, forse era indirizzata ad altre cose. Pure sono cresciuta negli anni 80, magari non lo so, era più Chernobyl quello che spaventava, era l'apocalisse nucleare che non il gender. Adesso il gender non è un problema, ma viene strumentalizzato come un problema, perché di fatto la teoria gender non esiste, è una creazione, è una specie di guerra fredda, cioè di un pericolo inventato che in realtà non esiste, è sempre una contrapposizione concettuale inventata. Ecco, e a proposito di pericoli inventati o di narrazioni inesatte, se non proprio completamente sbagliate, delle realtà, un altro tema che viene molto spesso tirato fuori, soprattutto da quella parte di destra, diciamo reazionaria, perché in quest'ottica per cui si è creato un nemico a cui si vuole rispondere, c'è della reazione effettivamente, forse una cosa che si tira molto spesso in ballo è tutta la questione legata ai farmaci, quindi anche intanto a una patologizzazione poi delle persone trans, ma in generale la questione dei farmaci per esempio ha un fortissimo appeal, così come tutta la medicalizzazione, diciamo, quindi penso dall'aborto in avanti, in realtà quando si parla di bambini, quindi bambini che verrebbero sottoposti a trattamenti farmacologici per effettuare una transizione nella pubertà, piuttosto che appunto in generale la difesa dei bambini dagli ospedali a un certo punto, sembra. Beh, sui bambini c'è sempre una strumentalizzazione, anche perché sono dei soggetti che non sanno, come dire, non hanno la capacità di difendersi, non hanno una capacità critica di poter opporsi a dei discorsi su loro, insomma, quindi è molto facile prendersela con i bambini, così come è facile prendersela con i migranti, perché al momento non hanno capacità di risposte in un certo senso, quindi è comunque molto facile. Uno dei problemi di fare politica trans è che molto del discorso è di tipo medico-legale, cioè di come cambiare documenti, ormoni, non ormoni, adesso si parla di una carenza di ormoni, cioè di ormoni maschili, anche perché da qualche anno il testosterone è stato indicato come doping e quindi è ancora più difficile reperirlo. L'Androcur, che è un antiandrogeno, si dice, l'AIFA l'ha messo, che è l'Agenzia Nazionale dei Farmaci, l'ha messo come all'interno di una lista di farmaci non reperibili. Quindi c'è un po' questo spettro per cui noi comunque di fatto dipendiamo sempre da qualcuno, che sono gli psichiatri che ci devono fornire un certificato per poter iniziare una transizione, il giudice che ci dice ok, puoi toglierti le tette, non puoi metterti le tette, puoi toglierti tu quello che vuoi, puoi cambiare nome, eccetera. Questa posizione di totale sudditanza di fatto ci indebolisce, perché ci toglie, diciamo, l'aria per pensare ad altre cose, come ad esempio, cioè uno dei punti della secondo me, forti del progetto Raising My Rainbow è di trovare appunto delle narrazioni che non siano medicalizzanti, che non siano patologizzanti, che poi anche tutto il discorso psichiatrizzante viene usato come, diciamo, controllo o comunque come sempre un filtro, che cioè comunque il discorso psichiatrizzante è un discorso che vale per tutti. Cioè, se pensiamo, che ne so, all'uso degli psicofarmaci, l'altro giorno leggevo un articolo per cui è molto più facile prendere degli ansiolitici o degli antidepressivi piuttosto che andare in psicoterapia, che è una cosa abbastanza assurda, perché c'è un discorso psichiatrizzante che prevale su un discorso, diciamo, umanistico, di relazione e di cura, di autocura, eccetera. Non vorrei andare troppo off topic, però il discorso patologizzante nei confronti dei bambini in questo momento è molto forte, anche perché nel momento che è stato approvato l'uso dei bloccanti in pubertà, per primo il Vaticano si è messo contro questo fantomatico farmaco che fa cambiare sesso, che ovviamente non è vero, e soprattutto non tutti possono parlare di farmaci, perché il sistema endocrino o endocrinologico umano è molto delicato e molto complesso. Sicuramente non sarà il Papa a darci delle nozioni su come funzionano le nostre ghiandole interne, quindi questa è un'ovvia strumentalizzazione. Su questo tema non ci sono degli studi a lungo termine, in generale sulla salute trans non ci sono studi a lungo termine, perché questa fantomatica, diciamo, ondata trans, cioè adesso è più facile iniziare a un'età minore, già, che ne so, già da minorenni. Magari quando ero minorenne era una cosa abbastanza fantascientifica in termini negativi, diciamo, e questo comporta un ripensamento delle categorie di genere, della nozione anche di autodeterminazione, perché la base di tutto, dalle persone trans alle persone cis, cioè le persone cis sono persone che non vogliono cambiare il genere in cui sono nati e nate, di fatto pone una crisi, cioè pone delle domande, perché se io solamente con degli ormoni posso cambiare genere, allora che cos'è il genere? È solo una questione chimica? È una questione di comportamento? È una questione sociale? Io non so rispondere. Le domande sono tante, sono anche complesse, e proprio per questo prima mi parlavi di questo progetto di creare una piattaforma dal basso sulla salute trans, anche per non essere, come dicevi prima, in una situazione di subordinazione, no? Rispetto a psichiatri costantemente, no? Medici. Sì, di fatto quello che, cioè, fare politica trans vuol dire auto-organizzarsi, scambiare molto informazione, scambiare idee, scambiare esperienze, perché non come dire, cioè solo noi ne sappiamo veramente, al di là del piano puramente tecnico. Cioè il problema qui, diciamo che secondo me viene fuori un problema un po' della società occidentale, della eccessiva, diciamo, quantificazione e tecnicalizzazione degli esseri umani, cioè che tutto può essere, il benessere può essere sempre riportato a un discorso medico, e che ovviamente non è così, serve molto altro. Cioè, nel senso, dico una cosa magari banale, però abbiamo anche delle aspirazioni, diciamo, di vita, oltre a essere persone trans. Quello è relativo, poi c'è chi lo accetta, chi no, chi ne parla, chi no, e sono tutte posizioni valide, perché ognuno fa quello che vuole, diciamo, nella propria vita. Ecco, poi torniamo a presentare il progetto Raising My Rainbow, che tra l'altro è ancora in corso, quindi in realtà ci saranno altri appuntamenti. Però prima volevo toccare un altro tema che accennavamo prima, perché appunto ovviamente anche Vivi faceva riferimento a questo prima, perché chiaramente ci parliamo anche prima di andare in onda. E un altro tema sulle disparità, diciamo, anche di accesso alle comunicazioni e alle risorse, che tu sollevavi prima, era proprio quello disparità economiche. Un esempio per tutti può essere quello del World Congress of Families di Verona, però diciamo in generale di come effettivamente in un mondo in cui tra l'altro tutta una serie di realtà si oppongono al capitalismo, poi dall'altra parte ci siano invece, diciamo, delle risposte che nel capitalismo ci vivono e ci vivono molto bene, e che quindi hanno dei finanziamenti e una potenza di fuoco anche nettamente differente. Sì, diciamo che tutta la destra cattofascista è letteralmente sommersa di soldi, che vari articoli ne evidenziano quanto ci sia veramente un giro di soldi enorme. Anche basta pensare a quanti soldi può elargire il Vaticano. Un articolo dell'Espresso, non so quanto recente, parla di flussi di soldi che vengono da oligarchi russi, e alcuni comunque forse sono informatissimi, erano presenti a quella cosa lì di Verona, insomma. E questo è un problema vero, perché facendo politica anticapitalista, scontrandosi con i fondi, diciamo, del capitalismo, noi perdiamo, nel senso che siamo sempre, da quel punto di vista, perdiamo. E dobbiamo fare degli sforzi 100 volte tanto per racimolare quei 100 euro che magari ci servono, con l'autofinanziamento ci servono per stampare le locandine, quando invece questi possono spostare persone, possono spostare molto più facilmente anche dei voti, possono affittare dei pullman andando in giro per l'Italia non facendo assolutamente nulla, affittare un pullman per vari mesi, comprendendo anche catering e tutto quanto, penso sia una spesa non indifferente. E se visto, diciamo, nell'organizzazione dei pullman per andare a Verona, per fare un esempio, quanto l'auto-organizzazione dal basso e il piano economico siano difficili sempre da tenere in bilico insieme. Sì, ma infatti si parla di ideologia gender, no? Questi progetti di educazione al genere che confondono i bambini, così, ma in realtà questi progetti fanno molta fatica ad entrare nelle scuole, proprio perché non ci sono fondi nella scuola pubblica anche per finanziarli, questi progetti. Comunque, torniamo a Raising My Rainbow. C'è stato quindi questo primo appuntamento della rassegna. Vuoi dirci quali saranno i prossimi? Allora, questa rassegna, è nata appunto in maniera abbastanza autonoma, e poi in un secondo momento siamo riusciti a vincere un bando finanziato da Transitional States, Wellcome Trust e MIT, sempre a proposito di fondi, che ci ha permesso di intanto pagare le ospiti, di finanziare due laboratori per bambini gratuiti tenuti dall'arte terapeuta Patrizia Piccin. Il primo c'è già stato il 6 aprile, il secondo sarà l'11 maggio. Il primo incontro è stato appunto quello sui libri per l'infanzia, in cui hanno partecipato varie realtà. Quindi c'era 7-9, che è una casa editrice indipendente italiana che ha pubblicato due libri tema, poi è molto attenta ai temi di genere, sia a livello proprio di letteratura che di analisi critica. Poi c'era l'associazione Scosse e una docente del Dipartimento Metra di Unibo. È stato un incontro molto bello, perché molto partecipato, anche molto, cioè molto informale, nel senso che non era un incontro accademico. E c'era pure Mattia Vecchi, che è un illustratore e attivista trans, quindi diciamo era nella doppia veste di attivista e di esperto del settore. L'ultimo incontro sarà il 16 maggio con Camilla Vivian, che presenterà il suo libro Mio figlio è rosa, in cui parla della sua esperienza di genitrice di un bambino gender variant. Il libro ormai è uscito qualche 3-4 anni fa, e se ne volete sapere di più, recentemente Fanpage e Saverio Tommasi hanno fatto un video sulla questione, un video molto, secondo me, molto bello, perché racconta una storia in maniera abbastanza semplice, come d'altronde fa Camilla Vivian, cioè lei, totale, diciamo, ignorante della materia, si trova questo figlio e si deve raccapezzare su quello che deve fare, e lo fa assolutamente senza appesantire la cosa, senza entrare sempre in quella retorica di sofferenza in cui ci troviamo continuamente nei media. Per questo, insomma, vi invitiamo il 16 maggio alla Libreria delle Donne, perché è importante avere, cioè praticamente lei e Mariella Fanfarillo sono le uniche due che hanno, no in realtà no, c'è stata Buci Sopelsa forse 20 anni fa che ha scritto un libro su suo figlio, ma di testimonianze genitrici in genere sono sempre le madri che scrivono. Ne servono tante, perché servono delle esperienze da condividere, servono dei modelli positivi, e non serve, ripeto, non serve una retorica della sofferenza, non serve assolutamente mettere le famiglie in una condizione, diciamo, di svantaggio e di minoranza, perché non ce n'è proprio bisogno. E diciamo che forse un'altra cosa che ancora di più delle narrazioni negative di cui forse ultimamente siamo abbastanza sommerse, se penso all'ultimo mese, però diciamo forse ancora più quotidiana in realtà, è proprio l'assenza di narrazioni, quindi anche l'assenza di possibilità di riflettersi, anche perché poi leggere dei libri è sempre ritrovare anche delle proprie storie, ritrovare una propria immedesimazione, diciamo, in quello che si legge, in quello che si immagina. E appunto forse io mi immagino sia ancora di più l'assenza proprio di un certo tipo di narrazioni, di un certo tipo di racconti, di immaginari. ancor più che un immaginario negativo, il vero problema, nel senso che se poi parliamo di un'imposizione, diciamo in qualche modo, di tutta una serie di stereotipi, questi stereotipi nascono anche perché ci vengono presentati come non solo la normalità, ma anche l'unica normalità possibile. Sì, ma questo penso sia in generale nella... cioè la pluralità di voci nel sistema mediatico in cui siamo adesso è un po' un'eccezione. Di qualsiasi tipo, diciamo, di categoria non ci sono delle narrazioni adeguate. L'unico tipo di narrazione adeguata che c'è in questo momento forse è dell'uomo bianco, cis, etero. L'unico, cioè, diciamo, e non sono nemmeno molto veritiere, però tutto il resto, tutte le altre tipi di soggettività minoritarie, non dico di minoranza, non hanno un tipo di rappresentazione adeguata. Questo è una delle cose che mi ha insegnato, diciamo, la politica facendo questi ultimi anni, insomma, da quando ho iniziato a fare politica. Riguardante l'identità trans, si possono raccontare delle storie trans, però a un certo punto anche basta, cioè nel senso che non si può, una persona trans non è solo la sua storia trans. E ancora purtroppo siamo a questo livello qua, siamo ancora al livello che dobbiamo convincere le altre persone che no, ma noi siamo come voi, cioè nel senso sì, ma anche no. Non è solo questo, cioè l'identità della persona è molto di più, e continuare a relegare la narrazione su un unico piano, anche se positivo, è molto molto riduttivo. Quindi il sistema mediatico punta molto su questa cosa qua, perché funziona, perché vende, perché crea ascolti, crea click, crea like e tutto quanto. E allora, insomma, noi partendo poi dal progetto Raising My Rainbow, in realtà ci siamo allargate su tutta una serie di tematiche, però stiamo arrivando alla fine di questa puntata, e prima di concluderla in realtà c'è un piccolo contributo da parte di Elena Alberti della Libreria delle Donne, che tu presentavi prima come una delle organizzatrici, appunto, insieme a te di questo progetto, e con cui abbiamo parlato anche in questo caso più che non dell'attacco neofascista, piuttosto della risposta che c'è stata, una risposta che tra l'altro in questo senso, anche proprio nell'ordine di idee di autofinanziarsi e contribuire a un progetto, è stata anche positiva in questo senso, perché come sentiremo tra pochissimo ha proposto anche delle modalità di solidarietà che contribuiscono ad ampliare la portata di Raising My Rainbow, e ascoltiamo quindi le parole di Elena. Sì, no, infatti di tutta questa faccenda, diciamo, la risposta più bella è stata appunto la reazione di tutte le persone che ci hanno mostrato solidarietà un po' da tutta Italia, anche attraverso messaggi, Facebook, eccetera, e anche, cioè, anche persone che hanno scritto un biglietto a mano e ce l'hanno lasciato. E una delle iniziative, diciamo, più belle che ci è stata proposta e che abbiamo accolto molto volentieri è questa del libro sospeso, cioè la possibilità di acquistare un libro per bambini oppure per ragazzi e ragazze da destinare alle biblioteche delle scuole. Insomma, ci pare il modo migliore per concludere questa vicenda, ecco. Allora, sicuramente questa è una bellissima notizia, e speriamo che tantissime persone, anche appunto tra le ascoltatrici e gli ascoltatori, decidano di partecipare a questa iniziativa, e intanto ne approfittiamo anche per lanciare quella che è una collaborazione che avevamo in programma da un po' di tempo, però poi, diciamo, tra vari avvenimenti, 8 marzo e, diciamo, un mese che in generale è stato abbastanza impegnativo, abbiamo continuato a procrastinare. Allora a questo punto direi che la possiamo lanciare insieme alla Libreria delle Donne, insieme ad Elena, nelle prossime settimane, alla fine di ogni puntata di Frequenze sui Generis, così come stiamo già facendo in questa puntata, insieme alla Libreria delle Donne proporremo anche una breve rassegna di eventi femministi e non solo, organizzati appunto dalla Libreria delle Donne, e qualche consiglio di lettura. Allora è chiaro che siamo un po' in un periodo di ponti, però ti chiederei se c'è già qualche evento che hai da segnalarci. Sì, intanto ci fa molto piacere iniziare questa collaborazione con la trasmissione, e niente, per i prossimi appuntamenti, a parte ricordare anche quelli appunto sempre che fanno parte della rassegna Raising My Rainbow, di cui vi avrà già parlato anche meglio Antonia Caruso a questo punto, che sono un laboratorio per bambine e bambine, che sarà sabato 11 maggio, se ne è già tenuto uno, il prossimo sarà sabato 11 maggio, e l'incontro e la presentazione del libro di Camilla Vivian sabato 6 maggio, libro Mio figlio in rosa, che parla della sua esperienza. In mezzo, diciamo, partiranno varie altre cose, tra cui il 2 maggio abbiamo un incontro, presentazione sulla fotografa Lee Miller, di cui c'è la mostra in corso a Palazzo Pallavicini in via San Felice, e poi un altro incontro che posso segnalare già l'11 maggio, mi sembra, è Donne della Rive Gauche, un libro molto, molto interessante. Poi ecco, diciamo che vi segnaleremo man mano altre cose interessanti e letture interessanti. Perfetto, allora noi intanto ti ringraziamo e ti salutiamo, poi aspettiamo nuovi consigli. Ciao Elena. Va bene, grazie, grazie a voi, ciao. Siamo tornate in studio e non ci resta che salutarvi. Io volevo ricordarvi, salutiamo prima di tutto Antonia, grazie. Ciao, grazie a voi per avermi fatto sproloquiare per minuti e minuti. No, grazie a te. E, se volete saperne di più, vi invitiamo a seguire la pagina Teoria Gender per la Vita, che su questi argomenti insomma ha delle chicche, ma poi c'è tutta una parte di rassegna stampa molto interessante. E seguite anche la nostra pagina, Frequenze sui Generis. Che dire, Anna? Ma diciamo che se proprio siete all'antica ci potete anche scrivere una mail su frequenzesuigeneris@gmail.com e poi non resta nient'altro da dire che il fatto che ci ritroviamo sempre qui la prossima settimana, martedì dalle 13.30 alle 14, un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko.